ci ha sentito parlare, non l'abbiamo chiamato Leandro Benvarume, ma aveva altri mesi indietro e quindi non riusciva a comunicare, non va bene. Gianni di Chiaramonte, si è parlato da Romonti, vai, fa che. Perché eravamo me, guarda, un secondino prima con tuo papà, Pierpa. Adesso ha detto che si è fatto la docente e poi si riprende, sai? Perché non ha visto la macchina di tuo fratello e pensava che tu sei andato a accompagnarlo, vai, o lui era andato a accompagnarti a te. Tutto qua, Pierpa, riprendi. 5. Positivo. Ti ha chiesto da dove stai modulando? Dalla zona dei Cappuccini. Cappuccini, la chiesa. Sono da Cappuccini, chiesa. Dirti a tratti come si abbassa il QRM. Mi dispiace, non riesco a copiare completamente tutti i tuoi passaggi. Ok, Salvatore, dai. C'è stato un break, lo facciamo entrare, avanti il break. Ho ben sentito, ben ascoltato Falchetto e l'amico di cui non ricordo il nominativo, Antonio Grotti, da questa parte, ci devono essere altri amici, ma non ho fatto abbastanza QRX perché stavo cercando di saldare questo microfono. Come sto uscendo, gentilmente? Mi potete dare un controllo? Da parte mia, dai, compagnia di Claudio Spaldiero, Pierpaolo, di rientro dal trabacco, Salvatore, dai, vai a di voi. Scendo di potenza, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Se scende di potenza scende anche la modulazione. Se sale di potenza non deve fischiare, evidentemente le posizioni in cui hai messo lo spinotto non sono quelli. Ma fischi, continua a essere a fischi quindi? No, non stai fischiando adesso, ma sei basso in modulazione per me. Se stai usando l'MF5 è molto basso. Guarda un po' adesso. Tira su. Guarda un po'. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tira ancora, tira. Se tira, scarica, fischi, credo, eh. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Non deve fischiare, tu. Non hai fatto bene il lavoro. Non deve fischiare. Quello deve andare da 0 a 10, senza fischiare. Quindi sicuramente i collegamenti che hai fatto non sono idonei allo spinotto. Prova a invertire la massa con il rosso o il rosso con blu, cioè vedi un pochino, c'è qualche inversione da fare sicuramente, perché va in innesco quando c'è rientro di RF, quindi la tua modulazione viene ripetuta all'interno del microfono, evidentemente la massa non deve andare nel posto che l'hai messa. Ma potrebbe essere anche problemi di stazionarie? Potrebbero o non potrebbero, quando si tratta di una connessione microfonica il rientro di RF è causato solo dalle connessioni dell'apparato, perché a quel punto potresti sì avere dei problemi ma di modulazione, quindi un po' più satura, un po' più, ma proprio questo innesco no, l'innesco avviene al momento in cui la tua modulazione viene ripetuta all'interno del microfono, quindi sta uscendo la modulazione e ti rientra automaticamente nella modulazione stessa che è quella che tu stai facendo al microfono, quindi c'è qualche posizione che non è la sua in quello spinotto, Anto. Grazie, sono in QRX, scusate gli amici, riprendi Antonio. Kappa, dai, facciamo riprendere a Pierpaolo, l'abbiamo lasciato un po' a San Mike. Va Pierpaolo, dove sei arrivato? Kappa, stai entrando in buca Claudio, dai. Kappa Rosio, microfono a Claudio Spaldiero, facci dare, vai. Sì, aspetta Salvatore, adesso ti rilascio subito, tu lo fai con te. I puntalini del tester è il puntale dello spinotto, se ce l'hai a 4, e ci lavori con la portante, schiacci. scusate, no, proseguite pure, che ne sto approfittando, nel frattempo sto parlando di alcune cose con mia moglie. Riprendi pure, Claudio. Buonasera a tutti. Buonasera, chi è? Ho sentito solo musica, chi è? Come solo musica, ciao. Solo musica, musica maestro. Oh, ciao. No, vabbè, questo guardatino non è che ti ho... Avevo capito che hai detto Luca. Ciao, buonasera, ho sentito. No, come si è stato portato, ho sentito... Buonasera, però accompagnato dalla musica, e quindi... Mi arriva troppo più forte la musica, tutto qua. Avanti, Falche. Ciao Luca, ben entrato, ben ascoltato. Chi lavora la pista che sta andando a prenderla? C'è Antonio, ciao Antonio. La pista, no, credo proprio. No, non siamo di pista, la pista la mangio. Una volta alla settimana si vede in pizzeria, no a casa. Vabbè, ma io l'ho fatto essere un pochettino gentile, per carità, niente di particolare. Non volevo farti ingrassare, lo so che sia dieta, ma siccome tu scendi adesso, mi ho sentito girando il canale, ho chiesto, ma se volevo, qualcuno voleva una pizza, la prendo e me la porto tutto lì. Comunque, fa niente, mi ha tolto un pensiero. Va bene, ricambia, Antonio, dai, non fa niente, ma mangio lo stesso. Siccome la dialisi sempre, no? Facciamo la dialisi. abbiamo trovato troppi liquidi, non me l'ha fatta. Senta, mi vado, 31 anni, ma c'è in gota, 31 anni. Ma il mio nome è di quando ormai? Di... lunedì. Oh, lunedì, lunedì, guarda qua, non vedi la foto, me la riconosci, ma non ti so. Alla finestra e punti verso i cappuccini e vedi uno stilo da 6 metri e 80 svettare, quella è la mia antenna. È positivo, la mia è l'unica antenna che vedi qua a monte, io abito qua nelle case di Canada, è l'unica antenna che vedi, la mia, non so, così di passaggio. L'unica antenna che è rimasta, il baracchino, la mia, c'era una legazione lenta, però quella ormai è morta, non fa mai più da anni. E niente, no, comunque arrivi fortissimo, non c'è problema. Sicuramente anch'io, però arrivo bene, non c'è problema per quella. Guardi, grazie. E tu mi accendo 5 minuti di orologio. Ah, per quello è essere, quasi, ad essere entrato nella patria, capito? Santiago 4, però c'ho QRM, quindi lo copre il suo passaggio. Lo smitter già lo muove. Vabbè, noi qua su in montagna già lo sentiamo, non ci stanno problemi. Mi pare non sia rimasto altro nessuno, Luca si è allontanato un attimo, avanti Antonio, quindi. Cappa. E a te quando ti arrivo io, sabato? 9, radio ottima. Radio ottima che significa? Effetto presenza, diciamo. Va bene che va bene. Si sta spostando, dai Gianni, giusto che arrivi leggermente basso. Signori, io ne approfitto, vado a fare un po' di carica se ci siete più dopo, se no ritenetemi super salutati. Falchetto QRT. Grazie Falchetto, troppo gentile, a risentirci alla prossima. Riprendi tu Clap, i saluti. Ciao Gianto, buona cena, buon tutto, io non rientro perché sto aspettando che mia moglie mi chiami per la cena e poi spengo tutto, PC compreso, mi sono già addocciato, tutto, e non faccio altro, guardavo un po' di TV e andarmene. Ciao Gloria, alle prossime, ciao Antonio. Salvatore guarda il micro, buonasera da Claudio Sparviero l'originale. Bianchi, mi prepari le mesce oppure un bel colore così siamo a posto, bene va? Ehi, grazie, è troppo gentile, buon proseguimento e buona carica. D'altronde poi quando le mogli chiamano, tutti sull'attenti. Io sto aspettando la mia richiamata, quindi. Riprendi Luigi per i saluti. Hanno chiuso tutti i salvatori, le mogli chiamano, noi dobbiamo andare, ma quando c'è appetito, anche se mi ha messo dietro a ferro perché stavo superando il livello di guardia, allora bisogna andare lo stesso, dai, a mangiare qualche cosetta e poi stare un po' in compagnia anche con loro. Io esco la mattina alle 6 e 7, rientro la sera tardi, quindi è difficile che vado a casa, perciò quando ci sono bisogna approfittarne per fare due chiacchiere anche con le signore. Ok, ciao Salvatore di Sassari, grazie per il questione, un abbraccio, a presto, ci sentiamo. Ciao Salvatore Barragricola, anche a te, noi già ci vediamo fra qualche settimana, mi raccomando, informa Salvatore, ti voglio informa. Gianni 4,50 poi un po' più sotto. Adesso io ti taglio pure tutto quanto. Allora, vediamo, aspetta. Allora. Aspetta un attimino. Attenuato a Santiago 7. Con quanto stai uscendo? Una, 04, se non ho niente. Aspetta, vediamo un po'. Sono proprio 00, non sai non niente. Guarda, completamente attenuato 7 watt, 7, 7 di Santiago. Attenuato sì, 9,30. Sì, sì, beh, troppo vicini. Troppo vicini. Si fa prima con un piccione viaggiatore. Infatti, sono un attimino. Chiaro, va benissimo. Tu sei un vecchio civile o nuovo nuovo? Io? Mico, sei un vecchio civile o nuovo nuovo? Ma guarda, io ho modulato a più riprese e adesso ero 2 anni praticamente fermo perché avevo rimontato l'antenna, perché interessava fare qualche DX per riprendere un po' a parlare inglese. Perché mi serve e poi il vento me l'ha buttata giù, quindi stavo aspettando l'occasione buona per ricomprarne una. E prima però di 2 anni fa ero quasi 10 forse che non modulavo. E ogni tanto mi riprende la passione, rimonto il montabile e vedo se c'è qualcuno. No vabbè, qualcuno lo trovi sempre, no, c'è sempre, sempre, no, c'è problema per quello. Dipende magari dalle giornate, a secondo non trovi nessuno, a secondo trovi 20 persone per dire no, che mai non sono 20, saranno 10, poi ci sono sempre, non c'è problema. Sì, io francese, inglese, giappone, ma per l'italiano, figura se mi faccio parlare comunica in spagnolo, ma niente di che. No, magari, bello lo spagnolo, bello, ma sono molto molto difficile. Penso di sì, però niente, a me serve perché anche come per il lavoro che faccio, che sviluppo software, lo uso parecchio, capito, quindi. Ah, è K-K, sì. Sì, sì, va bene, ma la voce sembra un giovane, se non sbaglio. K, sì. Signori, io vi devo lasciare, devo andare a prendere la mia figlia che mi sta aspettando, quindi faccio un saluto e un buon proseguimento. Giuseppe, riprendi pure. Venga, buon tutto, dai, Salvatore, ci sentiamo alle prossime, grazie per la chiacchierata e alle prossime, dai, riprendi tu Luca per i saluti. Venga, ok, Salvatore. Sentiamo le consigne, dai. Ciao ciao. Avanti, marrato piccolo. Prendo io. Grazie, grazie a voi per il QSO. A risentirci. Ciao a tutti, ciao. Ciao, ciao, grazie a te, ciao ciao. Attenzione, Salvatore, marrato piccolo, ci sei. Che c'è sceso qualche fosso lui. Quindi ha dato la cavatella. cosa. No. Tutto a posto, niente, ovvio. Tra l'altro niente, no? No, no, prima il contratto il giovedì. Non per il rimesso. Ma c'è proprio il comune, è blu. E diciamo di sì, dai. Va bene, l'importante è lavorare poi. Io sono giù a Alghero, adesso per adesso sto viaggiando e si tirano le somme. Ma gambe! E ogni mattina metto a tornare alle 6 e alle 7 e mezza devo essere già giù io. Ascolta, macchina tua? E io? Ma troppo la benzina? Eh? La benzina te la paga? Negativo. Come la fai? Come faccio? Ritiro la legge, ritiro 900 euro. Ah, che riesci, ne è andato. Ti ritardo, vabbè. Quindi non puoi dire niente, però ma sta scherzando, no? E forse dovrei partire anche con lui a Torino, ho capito. Ascolta, ma quanto prende al giorno praticamente? Dovrei prendere, fai conto, 900, moltiplica, dividilo quanto è la giornata. Così passa la radio. Quindi 50 radi sono 1000 euro. La benzina, no, ma stavo scherzando, no, non può essere, no, non esiste, dai, però non è peggiorando. Lo so, ma meglio di, meglio lì da ferma o senza valuta, certo che da con le altre, quelle persone là che ci voleva fare il cantiere, 8 ore per darmi cazzo 30 euro, cazzo è meglio, è compreso, meglio quello. Cheers. spendo più di 400 euro di benzina a 10 euro al giorno. E non metto la benzina, metto le gomme che uso per il consumo di tutto cazzo di macchina. Deve calcolare quello pure. Anche quello, cioè, soprattutto anche quello, le gomme, l'olio e tutto quanto. Su per giù, ecco dovevo fare, è venuta, a meno quello. Se l'hai compreso, no? Che terreta ne è a 3400 euro? Non so più 900, deve essere 400, ma non 500, 400 nel caso del consumo della macchina. Il discorso è questo, che altro lavoro non ce n'è, cosa devo fare? A meno quello, viaggio e ciccia, cosa che devo fare? Mettermi a casa così, senza far nulla, farmi campare la mia madre, non credo proprio. Sì, ma almeno viaggiare in due, tre, in quattro, devi dire pisi, ma così no, Dio che tu fa? Sei scherzato, come viene più a fare un lavoretto qua, prendere di meno qua, prendere per esempio 600 euro qua e già guadagnato, 600 euro in oggi vai a guadagnato, hai pure 50 in più vai a guadagnato. Lo so, adesso stavo lavorando con uno vicino a me, no? Un amico, sta facendo qualche giornatina così a ristrutturare appartamenti, quella roba là, a fare pati, terrazzi, tetti, quella roba, mettiamo là 40 euro al giorno, l'ho preso, però non lasciassa lì. Ma io la Ladini, se tu fai un giro di Gonti, alla Ghetta, sotto il Codino, sono 5 giorni, sono 5 per 4, sono 200 euro, io uscio, non voglio niente mi gioco, e sono 500, cosa ti di più, 200 euro, io uscio, 20, sì, sono 200 euro alla Ghetta. Beh, 5 giorni sono 200 euro, giusto? Se detto sono 400 sono 600 euro, te ci metti la miglio 600 euro, no? E a voi la miglio, ma è un bel miglio. Lo so, oggi, però il fatto che questo si fida di me, mi ha sempre chiamato, ho fatto stagione, questa è la stessa stagione che rifaccio, dunque, ma io gli ho spiegato tutto, e adesso dice, beh, un po', dati almeno 1.200, speriamo, ho detto, che sia così, perché io ho detto, ce ne metto 400 euro di benzina, cazzo, vado a cazzo campo, a 400 euro, non c'è un prezzo. Questa io non ci volevo credere, non ci volevo credere, queste ragazze che lavorano al mar qui a Ottava, che fanno le 8 ore, prendono 1.000 euro tutti giorni. Che si impegna. A volte dice secondo se lavora qualche, però va bene, per esempio lo usa, no aspetta, arriva ai 1.100 prendo al mese queste ragazze, lavorano dentro il balcone al bar. Lo so, è giù a Ottava, lo conosco il padrone, ma solo sai cos'è, il discorso è questo, che facendo il mio lavoro, che il mio lavoro è dietro il banco, lavorare dietro il banco, io ho già una certa età, se non mi piglia nessuno, è preso, sono troppo grande. Positivo, no? Per dirti, no, queste sono, vabbè, sono ragazze, fanno il lavoro che può fare anche un ragazzo dietro il bancone, l'altro fanno meglio, anche i membri sono più forzati per lavare il pasto, vabbè, anche sono tutti fanculini, sono più, fanno meglio degli uomini, a dire la verità, allora già prendo, se prendo 1.100, 1.200, mi pare che ho preso una linea, che sono fatta, adesso che la gente mi conviene la travaglio che posso fare, mi voglio cadere dal bancone. Il discorso è quello, io quando facevo il barista andavo con la cifra lì e campavo a Ufa, ma solo che non c'è altro, devi tirare l'acqua dal tuo mulino, però non c'è altro, oggi. Se c'è una bolletta di luce, c'è una decisa a me, che ti ho pagato io, guai. Io lo so, so se andare a quel camion, non io sono di notte, se pure caso mi sono alzato alle 4 la mattina per andare al lavoro, che mandavo quella pazzia, tutto sommato, tutto imbriaco di sonno. Non faccio quello che aveva fatto a me, cazzo, con caldo, e il caldo ero qua. Alle mani, cazzo, ieri notte, alle 2, cazzo, ero già scittato, e il caldo, sono uscito pure dal terrazzino, alle 2, cazzo, mi sono seduto alla poltrona, ho fumato una sigaretta e poi non ho messo nel letto. E a voi, quando ha suonato la sveglia, alle 6, cazzo, non me ne volevo alzare, ma è... Positivo, là, positivo. Ho mangiato un po' di frutta stanotte. Ho mangiato un po' di frutta. Mia madre ha portato la Macedonia e... con le pesche, no, c'erano delle pesche un po' mature, le ha tappate a pezzi e tutto quanto. E io ci ho aggiunto, da voi ci ho aggiunto un pezzo di anguria. La verità è che non ne so compagni di frutta, dico la verità, sto mangiando la mia. Mi sto mangiando, se ne farà da brutta, adesso vedrai sabro e sabruna e qualche figa di quelle sosine gialle, chissà ruia, pare sembrano pescherucci, di chi se. Intanto mi devo arrivare ma ci ho fatto una fumogola all'apolo, mese fresca in frigo, la sciacqui e... E ne ha mangiato un bel po', ne ha mangiato un bel po', tanto so che non è quella, si può dire proprio, non mi ricatto nulla, gli ho dato medicina pallotta. E quelle sono le migliori perché non c'hanno, c'è poi medicina e nulla, sono le più sane. Non affiatte nulla quando vai a muore in bocca e ci sono... va cazzo, quando, come vai a tritela in bocca e t'allaga tutto cazzo, ma te ne mangiare l'acqua che c'è questa frusina cazzo. Piace molto, non so se te la metti, la coninca, te la metti ci. La metto e la rifacciata che mi ha rompito le balle, mi ha riattaccato a un bagnetto, immagino che mi siano garage, non l'hai visto, vedo, mi vedo garage, mi facevo garage a fianco, era una mossa, un mosona di comunicarsi, della matamanna, cazzo è... Mi ha tagliata, mi sono fatta a legna, mi ha tagliata il sciaccarno, e mi ha detto che si trova anche il puntone, mi ha proprio tagliato la zona di terra. Cazzo, storia, grazie. E io ho preso, e domani, nuovamente tra. Ma è andato ora dei 4. Auguri, e dove sì? Che zona sì? Intanto me la fanno una bella carica di pietre vulcaniche domani mattina, è diritto. Adesso sì, vado, sono lì carico e vado in zona di Cagliari. Ogni così, ogni giorno così è. Positivo, per oggi è la tripla la cosa, mi sento boh, ero un gato, ero cotto, non ho riposato vecchio, non ho dovuto pulire, non ho avuto poco tempo a dormire, mi sono alzato alle 4, sarà per quello, ieri proprio sono andato alle 4, sono andato alle 1 e mezzanotte a letto ieri notte, una cosa dell'altra, e mi sono avuto l'attesa. Però se mi sono convocato, ho avuto un po' che sono andato alla sveglia, alle 4 mi sono alzato. E mi sentivo troppo forte, non volevo riposare, avevo bisogno di fare più sonno, dai. No, dal lunedì che mi sono alzato dalle 4, poi mi sono trovato appesato dalle 4 a Manzano e la cosa è stata ridicola. Ecco. Anzi, è registrato il becco che era avanti. Preso, era una specie a me, faccio una volta qui che io mi passano le ali alle G, da poi mi chiede un caldo. Dove sono io al lavoro, faccio la strada sabbia e quella roba là, tutto quanto, avete qui che non lo soffro, poi oggi quando vedo a pulire il piazzale, e a togliere tutta la sabbia, da voi, non altro, non ho fatto, non ho tolto, cazzo, ha fatto un danno, cazzo, un micidiale, a togliere tutte quelle alghe che il mare ne ha portato, cazzo, guarda, ha fatto un casino micidiale. E mi fai entrare questo break avanti? Faccio il break. Io non ho dato spazio, sì. Non lo so, se c'è, viene avanti, se diamo un po' di spazio, se vuoi entrare. Avanti il break. Se c'è ripresa già chiamerà nuovamente. E io, non io pure a me come si attacca a tutto e non lo so, non ne ho sonno, però mi voglio cercare di rilassarmi un po', mi voglio rilassare un po', e così domani mattina mi rilasso più fresco alle 4. Adesso a te ti conviene, tanto hai cenato, hai cenato, adesso ragazzi 10 minuti, guardate, 10 minuti di televisore, studi e da voi, fanno il sonno, sino alle 4 e sempre tranquillo. Positivo pure a me Falchetto, ma andate, fate compagnia. Falchetto ci fa compagnia domani mattina. Ah, ecco che c'è altro presto anche lui. Positivo, già se la mattina già ci fa compagnia. Sì, hai capito, G? Stavo chiedendo quella questione là, se ne hai qualcuno per la macchina. Positivo, là. Già c'è qualcosetta. Vabbè, ando bruciata, lo segnali, no? Via. Vabbè, dai. Io posso scendere anche in domenica, perché giorni liberi... il sabato c'ho mio figlio, la domenica me lo tengo per me, però se ci c'è la domenica mattina mi da te. Che positivo, dai. Già sarò qua in zona. Se non stai facendo niente, se non sei impegnato, se non ti disturbo, al limite c'è la domenica mattina verso le 10:30-11, a meno... Abbiamo noi di andare a cercare un caffè. Positivo, no, devo bianchinarlo, faccio preparato la pittura, però non da giocare, avevo bisogno di riposare, devo riposare, c'è niente da fare, se non mi dà un po' di tregua, devo anche qua questa cameretta, questa maletta la devo pitturare, la voglio fare per questo periodo, voglio sempre pitturare l'estate, l'inverno. No, ma l'estate sempre la giornata una pitturata, ma mi pare che la camera è già un paio d'anni senza pitturare. Ma dove sei? A casa oppure nel garage? O... Sì. Sono a casa. Sono a casa adesso. A me no. Oh, yeah, hai capito come il discorso? È un casino, ogni tanto la mattina vado uscendo, sento qualcuno, ma non mi sento a me da Alghero a Sassari. Bene, cosa c'è in macchina, mi dipende cosa c'è in macchina. Cioè, quello che ti ho fatto vedere, quello che c'è insieme preciso a te, quello che c'è tu e io, giù al garage, uguale. Che poi io avevo detto a Antonio del Bello, mi pare che aveva fatto tutti i lavoretti, ho detto io li aveva fatti lui. Vabbè, ma oggi prima l'ha stato solo di coso, era 5, ma l'ha solo fatto a 7, però ci vuole qualcosa di concreto, ha capito? Lei così, avete la stata a 7, quindi tutto alla 5, a 4, ecco questo, ecco come il discorso, perché non ti sa, può darsi che sia abbini, ma è difficile che si abbini, E adesso, anche la quarantena che ho, non è proprio l'antico, c'è un'altra antenna che con il coso sotto che sembra una molla, però è nera, capito? Positivo. No, te volevo dire, vedi, con 7 watt non lo so come si sabbina, hai capito? Con 5, 4, 5 watt sì, ma con 7 non lo so, Non lo so, guarda, però io faccio una cosa, lo fatto, lo lascio a te e poi ci pensi tu. E lo fai ora a quello che c'è là. Lo chiamano 9 watt quello mio, adesso l'ho passato io a 4 watt e mezzo, l'ho passato io, però stavo dicendo quel lineare fanno bene 4 watt, se poi inizi a tagliare di più non lo so, no, non va bene, penso che vado in saturazione, quasi si abbini pure, capito, però quasi vado pure bene, ecco, non mettiamo... il carro davanti ai bue, come dice qualcuno, mettiamo i bue davanti al carro, se no bisogna abbassarlo, capito? Bisogna abbassarlo e niente, perché ci vuole, come c'ero io in macchina, vuole fatto, se vuole fare, io ci ho fatto fare la 4 watt e a 10 watt, anzi un po' di più, ma a 10 watt quello che c'ho io. A 7 piedi, a 7 piedi, è uguale, però è uguale al mio, però il mio da quando l'ho piazzato non l'ho mai toccato, ma non ho mai fatto niente, solo quel microfono che mi hai dato tu, che ha verificato, e l'abbiamo adattato a quello, poi non c'è altro. No, si va in macchina, io non è come te, io ce l'ho questo buttato, l'ho fatto in garage, adesso quello piccolo l'ho staccato. No, voglio dire, in macchina ci ho diverso io, però niente, ho fatto delle modifichette per poterla attaccare con un lineare, capito? Ho capito. Via. Ma Luca, Montezemolo, ci sei? Vado ad attaccare, accendo il condizionatore in camera a letto, così dopo quando vado troppo più fresca. L'attacco un po' il condizionatore, l'attacco perché mi prende caldo, se vuoi aereo che voglio trovare con un bicchio, così dormo meglio dopo, riposo meglio. E vabbè, vai, vai, io sono qua. Questo è un 48 normale. regalino che mi ha fatto lui, dai, che me l'ha mandato lui a modificare. Esatto, tanto poco si sente bene. Questo è un signor baracchino, è forte pure, questo non c'è bisogno di mettere quella questione là che ti ho detto. No, no, questo... questo è fatto a Napoli, capisci? Napoletano è... questo è fatto a Napoli da San Pattino. Ma dov'è coso? Palmiro. Sì, folla quella. Deve stare entrando, la dalle mani che esci deve tenere un occhio. E se gli dai dove è la tornata là. Palmiro, ci sei? Se non ci sei, batti un colpo, Se l'hai fatto che? Ma dov'è il viaggio, oggi? Se l'hai detto, ho capito. Ho detto, ma il viaggio è Palmiro. Sta rientrando, forse da oltre la caglia, non lo so. Auguri. Mamma mia, qua, già è brutto il nostro lavoro di là. Ma anche il vostro, quando succede queste cose così, a rientrare anche alle 11, mezzanotte di notte, proprio farà il latte da quella questione. Lo so, lo so, sappiamo questa cosa, qua, dove siamo la potenza. Mettiamo un minimo di necessario. Si sente un po' la voce quando ripeto, l'eco è ripetente, capito? Questo è cosiddetto effetto di Cottero. Cambio. Cosa ho sentito a Gianni? A farmi. Non ho fatto la telefonata. Parlo che dai. Sì, a Gianni sentito la stamattina, no? Perché io ho paura a metterla in camera, capito? Infatti non l'ho messa, non ci ho provato, perché ho detto sia che la mette, mi piace, e poi è un casino a togliermela. E allora non l'ho rischiato e non l'ho messa. Dai, adesso ci vuole informazione. Signori, buon proseguo di serata, che io sono arrivato a casa, vai! Fatemela buona! Almeno mi ha salutato, ciao! Che tu hai voglia di abbracciare i bambini adesso, dai, che sei pure da ieri. Pure io, mannaggia, è un caso, sono dei viaggi particolari. Beh, dai, fatemi rientro con tutto, ciao Palmi, ciao. Ciao, Palmi, buon rientro con tutto, dai, buon 144 e ci sentiamo tutte le prossimine, vai. Ora è anche lui è rientrato, dai. Hai capito, lei dice, adesso ce ne sono apparati belli, ma costano, Giuse, guarda, io ne ho avuto tanti, ti giuro, io ne ho avuto, l'ho venduto da poco, 8 milioni, poi dell'8 milioni l'hai visto a casa, tu l'hai visto l'8 milioni, quello che c'è la stazione. Sì, ho visto. Quello l'ha tu accostato, l'ho venduto io, quello l'ho venduto accostato, ma io ce l'ho in il gemello ce l'ho in camion io, quello dopo in camion 8001, il gemello di quello lì. È bello, la cosa bella, si vuole pagata. Ti puoi immaginare questa, se consento io 550 euro un apparato del genere. Beh, come tu sei, guarda, io ho visto, mi ha dato dei prezzi con Antonello Cusciaro, di quei baracchini di là, sì, erano pesi, però piacciono molto, sono troppo piccolini, capito? La guerra, la battaglia è questo, questo è un guerriero. Il 48 è un apparato guerriero per la macchina, per il camion, per tutto, capito? Questo tu gli puoi fare quello che vuoi e lui spinge, lui diventa un mostro. Questo è da battaglia, un apparato da battaglia proprio, questo è un baracchino guerriero proprio. Vabbè, ma questo è quello che usi tu, il tuo personale, che usi a casa e non lo metti in nessuna parte, neanche nel camion. Ho messo qualche giorno nel camion, capito? Ho promesso, ogni tanto lo metto nel camion pure, ma questo è una cosa che non si tocca. Non lo darò mai e poi mai questo qua. La cosa migliore è già la roba. Questo è peggio di con una seconda moglie, capito? Sì, no, e poi tutti mi dicono cosa, molti sono fedeli in quanto cagli il baracchino non la vendono, io invece no, mi ha fatto girare parecchi, dico la verità, ma un be veramente, un be di baracchini, un be, mi ha fatto girare, ne ho avuto parecchi e non mi rimangono mai in mano, dico la verità. Vabbè, quando sei in mezzo a questa questione, sai dove mettere le mani e no? Quando trovi uno che non è esperto, tipo me, hai capito, io adesso sono rientrato da poco e non è che prima sì, mi appassionavo di più tutto quanto su questo degli apparati, tutto quanto, però come ma tu fatto e ho mollato tutto e non lo volevo più sapere. Perché io ce l'ho questi due banchini perché me ne hanno regalati, se no non sarei manco piazzati. È positivo sentirlo. Comunque per prendere soldi uno lo trova anche un esatto, però per prendere quello dico io, per casa, che adesso tu non so se hai baracchini che puoi andare nei canali di sopra, di sotto, da altre parti, non so se ne hai. No, negativo niente, no, io ho 40 canali, normale, questo è, assomiglia, era di un vecchio pescatore, figurati, un vecchio pescatore che ce l'aveva buttato in barca e non sapeva cosa fare. Un giorno scendiamo a dove ci aveva attraccato la barca mio fratello. Conosciamo questo pescatore, dice, ma conosciuto, dice, guarda, tu vuoi questo apparato? Ho detto, quanto vuole? No, non voglio niente, te lo sto regalando. È un regalo, perché non ne voglio più sapere. Oh, ho preso, grazie. E da lì, mi ha dato questo apparato, però l'ha aperto Alessio, ha fatto quello che voleva fare, di alzargli un po' i watt quello lì, e basta, non ho più messo niente. Ma la tua che cos'è? Poi Gigino. Quando lo smonto, te lo porto, può darsi che te lo smonto domenica, lo metto in macchina e te lo faccio vedere, poi, non lo so, me lo dici tu, cos'è, che apparato si può assomigliare a questo, boh. Ah sì, non dove vorrebbe entrare chi è? Io sa, più piccolo che sa di Gigi. Che è detto della esperienza? No, non ho una marca scritta da davanti. Ma ce n'è marca qua, sì, non ce n'è, perché è un po' strano, c'è un povero da cambiare le stazioni, c'è un povero grosso, e più gli altri, lo Swatch e poi altra cosa. Questo RFG, quella roba lì c'ha, poi c'è AM, l'antenna, poi c'è NB e poi G, B, ma che non ho capito cosa vuol dire G, B, ma ho capito, diciamo che un po' bello male ne verrà in mezzo, verrà poi c'è attenzione, c'è questo pomello grande, hai capito? E non ho scritto nulla da Nate, che dicevo che guarda chi lo manca Taritto, non fa una targhetta Taritto. No, non c'è scritto niente, no, nulla. Dietro dobbiamo guardare la luce, cosa è? Domenica, quando scendo da te, lo vediamo. E poi vedi tu cosa può essere questo paracchio, che non lo so. Ascolta a me, dimmi una cosa, ma c'è quanti canali ha? 40 canali? 40 canali, sì. Basta, solo 40 canali, c'è. Cioè. Sì, solo 40 canali. E altri? Niente, no, non c'è altro. Né sopra, né giù, nulla. È nero questo baracchino? Sì, le coperchio è nero. Farino? Eh? Frontalino di Davanti, che colore? Allora, il frontalino Davanti è scritto. È segnato nessuna sigla, un numero, nulla. Nulla. Ecco, pronto. Ma c'è l'altro che scusi per la Davanti. Aspetta un attimo, stavo parlando, cavo. Buonasera. Allora, ti sto dicendo, no? La scritta, dove c'è la scritta, si è cancellata, giusto? Basta. Si è cancellata, giusto. Pomello cos'è? Grigio blu, pomello che gira, è tondo, grigio, Nero. Se non vedi, ma ce l'ha un fianco questo pomello, per dire i canali. Ehi, ce l'ha un fianco, sì. E lo smite dove ce l'ha, un fianco o centro? Allora, lo smite ce l'ha proprio sotto lo switch, il volume e tutto quanto. A centro. Ma se non l'ho detto... Seria. A te lo voglio vedere quel baracchino. Lo voglio vedere quell'apparato. Tu, perché tu mi hai parlato del peschereccio, giusto? Eia. Lo devo vedere quell'apparato lì. E il microfono com'è? Il microfono... Come ce l'ha il microfono? Su originale non c'è scritto nulla il microfono, gliel'hai abbinato tu? No, gliel'ho abbinato io e... Allora, il microfono è questo qua, adesso te lo dico, aspetta. Si chiama 1-1, cioè 3-1 e 5, è della Tecol. Non è il suo originale però. No, negativo, no. Io l'ho abbinato io. Non lo voglio vedere quello lì, mi pare che ci manchi quello, sia di peschereccio, lo devo vedere, sicuramente non vorrei che sia un Colt, come apparato. Domenica mi qua, se scendo te lo porto e te lo faccio vedere. Se è il colto quanto l'ha pagato Giovanni originale vecchio così. Qualcuno il pescherito deve essere te lo regala. Sai quanto l'ha pagato non vecchio di 500 euro, un vecchio non funzionava. Ti ho detto che questo qua, vabbè, era una persona anziana, questo pescherito che era anziano. Abbiamo conosciuto perché quando avevamo la barca, la barca vela, attraccava dove c'era la barca vela mio fratello, no? E gliela poi perché quella cosa gliela legavamo noi, la legavamo assieme, capito? E dice grazie per il favore che ti faccio un regalo. Vabbè, ho detto, vabbè. Lo faccio avere, lo vuoi questo baracchino? Ho detto guarda, io lo usavo ma tanti anni fa, però adesso non ne voglio più sapere. Vabbè, grazie, l'ho preso. Siamo d'accordo, Mickey G non è quell'apparato, giusto? Il pomello che c'è scritto Mickey G ce l'ha, no? Te lo dico, aspetta, ti accendo la luce. Allora, no, Mickey G non c'è nulla, no? C'è volume, switch, RF Gang, basta. NB, off, Alana, no, non c'è nulla. Un attimino, c'ha lo squash e il pomello, c'ha il pomello dello squash e il pomello del RFG, così va bene. Allora c'ha il volume, squash, sia il narugaio cui. Mi sono fatto il break, guarda. Perché? Se quello di cui il Michigan non ce l'ha. Perché la radio ce l'ha, l'originale ce l'ha, le Michigan ce l'ha, della radio ce l'ha il microfono. Quello che dico io, se quell'apparato lì. Non lo portare qua, perché se tu lo porti qua non lo porti più via. Davvero? Io te lo porto a farlo vedere poi, vedi tu, CJ. Sì. E io te lo porto a vedere. Poi se ti piace, ci mettiamo d'accordo. Questo è quello, però manca una cosa che tu mi hai detto. Deve avere almeno il canale sopra. No, non ne ha niente. Non c'ha niente. Non c'ha nulla, né canale sopra né niente, non c'ha niente, se no non te l'avrei detto. Senti, oggi. Comunque quello che ti sto dicendo io, dai. C'è quello che ti sto dicendo io, c'è quello che sto pensando io, dai. E perché già come me l'hai scritto corrisponde le cose. Vabbè, dai. Domenica lo vedi, domenica come scendo giù da te e andiamo a berci il caffè, lo vedrai. Quando tu mi hai già detto già per il peschericcio, a me già mi si sono addrizzate le orecchie, capito? E già lo so che con i peschericci a volte lo usano anche modificato. No, quello diventa come questo, capito? No, le modifichiamo quegli apparati lì, diventano micidiali, capito? Vanno sul canale normale, canale sopra, ma non c'è altro, però col microfono suo originale è una bomba, perché il Mickey la radio, quello lì, ce l'ha nel microfono, la rotella che rigoli la radio ce l'ha nel microfono, nel suo originale. Ho capito. Io domenica te lo porto, io scendo e te lo porto, e tu lo vedi com'è, e poi dietro c'ha due cose per le colonnine, per attaccare le cuffie con la roba là. Quello già è normale, ce l'hanno, ce l'ha. Vabbè, ma chi c'è in lista d'attesa? Parchetto. Ciao Giuseppe, ben ascoltato, poi c'è stato un break e lo facciamo entrare, vate break. Ma scusate, non riesco a trovare nessun altro per potermi dare un controllo, siccome sto sistemando questo microfono. Antonio Rode, volevo sapere come si stava fischiando ancora. Fischiando o non sta fischiando ancora? Dottor Roger, per il momento provo a aumentare, vediamo un po' se fischia ancora. Non aumento, fischia. Aspetta, guarda, se passo da 9 a 10, sì. Sì, lo sento io per il ritorno. Guarda un pochettino così, comunque sia abbastanza amplificato. KK, vai. Sì, quando aumenti fischia. KK. Stazionario, perché se salgo su al 40 non mi crea problemi, posso pompare, non ci sono problemi. Gigi, come mi senti? Non è malvagio, insomma, un po'. Ma quando apri che cosa? Ma il microfono normale sta operando, che cosa c'è? Cos'è che aumenta? Non ho capito, cos'è che apre? Tiene un MB5, capito? Ah, ecco, quando apri, sì, allora, ma non c'era qualche apparato col parlascolta, no? Che c'è il parlascolta, no? Negativo, è che devo dire la verità non è, no, però che non ha gli spinotti messi bene, quindi te ti devi ricostruire un attimino lo spinotto, capito? Facendo girare i cavi. Come mi ha detto Claudio, li ho fatti girare, credo di averli messo nel senso giusto. Adesso sono a 9, sono a metà 10 inizia a fischiare. Fischia però in AM, in FM non fischia e in 40 è perfetto. La controllare stazionale, non ce l'hai. No, infatti, in questo momento non ce l'ho attaccato, però deve essere quello. Altro break? No, perché non deve fare, se non fa l'ho fatto tutti i canali, se c'è un problema. Se poi invece può essere leggermente stazionario, per fischiare dovrebbe andare invece, diciamo, a gracchiare di più la radio, a saturare la radio, ci sono stazio Maria, capito? Se riflette la radio più bruttina, più rimane un po' gracchiata la radio quando c'è stazio Maria, capito? Comunque, registrate il break, come la senti la radio, puoi far entrare tu il break. Ma non è proprio, potrebbe andar bene, non è proprio bella perfetta, diciamo bella chiara, perfetta come deve essere, però può andare, diciamo che può andare, capito? Non è proprio perfetta, però potrebbe andare. Ma non dire, dai, facciamo entrare il break, avanti il break. Eia, buonasera, Antonello. Qualche altra informazione, chi è bravo a tradurre in dollari 189,95 in euro? Computer, se ce l'hai, se no te lo faccio io adesso. E fai la cortesia, perché sto usando questo apparato CX366CE, è della Conner, che è uno spettacolo. Quanto è? Dì il prezzo. Allora, 189,95. No, è 150. 150 euro? È copiato. Ehi, a 150 euro hai detto. Ma poi varia, perché da luglio a domani può variare la borsa e quindi di conseguenza, sì. Comunque, intorno ai 150 euro. Bella storia. Voi lo, ce l'avete presente questo apparato allucinante? C'ha 9... Aspetta, vediamo, perché lo sto guardando qua. È uno spettacolo allucinante. Che esce con 100 watt questa storia qua, americano, e c'ha 15 colorazioni che si alternano, diciamo l'apparato diventa tantissime colorazioni a tempo, uno spettacolo, ed è il Connex CX366CE. Vabbè, insomma, sono dei buoni apparati. Io adesso questo non ce l'ho presente la marca di 1398, però sono dei buoni apparati, sono dei buoni, io quelli più, diciamo, da mettere in camion e cose o qualcuno, è come l'8001 che ho io, il Conner, è come l'8001 che ho io, di grandezza. Comunque sono veramente carini, no? Sto guardando un po' a vedere cosa c'era in circolazione, ti dico che sono veramente tanti e molto molto belli, è la verità. Comunque buonasera a tutti, continuate, la io sono qua. No, assolutamente, questo sul sito è nuovo di Zecca. Giustamente è scritto in inglese, devo cercare qualcosa in italiano. E c'è scritto in stock 189,95 con la S al barra al centro della S, questa vabbè è in inglese, ma ce ne sono tanti altri che hanno dei prezzi un pochettino più superiori, ma ce n'è uno più bello dell'altro, che sono delle cose veramente incredibili, guarda, questo esce anche con 175 watt in uscita, e questo qua si chiama il Magnum S3 175, e qui c'è scritto 389,95 sempre in dollari, minimo saranno sui 600 euro, ma sono delle parate veramente spettacolari solamente a vederli. Un attimino, aspetta, ti fermo, ma te lì, Antonio traduce di quelli lì in dollari, poi io, siccome io lo conosco bene il prezzo di quel magnoli, quanto viene a costare, glielo puoi fare, lo puoi calcolare. Ho detto, posso entrare? Chi tu sei entrato? Ma è quello che ti ho dato io, sei entrato, Antonè. No, io stavo cliccando, che poi me l'ha dato anche stasera Gian Maria, e lui mi ha dato, diciamo, la sigla di questi apparati, che poi mi ha dato anche altri, adesso devo cercare il foglio, vedere dove l'ho messo, perché lui mi ha dato un altro nominativo di un apparato, poi cerca, ne sono usciti altri, ma ce ne sono talmente belli, guarda, che sono incredibili, poi questo qua c'è scritto LOL, Tricker SR49HP, lo stesso, ed è tutto verde, uno spettacolo, solamente a vederlo, anche questo qui c'ha un sacco di colori a LED che cambiano non so quanti colori e ti dà la luminazione dell'apparato. Poi c'è quest'altro in saldo, lo stanno dando, questo Cobra 29 LX multicolor radio, sempre nuovo, scontato, e lo stanno dando a $129.95. E anche questo qua è bellissimo solamente a vederlo, guarda. Io qui in dollari quando viene, io te lo conosco il Cobra, che a me me l'ha mandato come campione, il Cobra, il Magno, lo conosco bene, sì. Comunque c'è un sito dove io ho fatto arrivare già da anni fa, 6 anni fa, io mi servo da questo, e c'è un sito, io l'altro giorno l'ho dato a Sandro, l'ho dato pure a te, Antone, se non sbaglio te l'ho dato, te ricordi la sera, te l'ho dato quel sito, l'ho dato a te. Ovviamente la verità me l'ha dato tanti, scusami, può essere che me l'abbia dato, ma non me lo ricordo se sei tu la verità. E niente, così cerca, diciamo con l'aiuto di Gian Maria siamo entrati insieme, lui con il computer e io con quest'altro, siamo messi alla ricerca, perché anche lui c'ha un apparato che l'ha comprato in un rivenditore qua in Italia, non so, mi ha dato il numero di telefono, però l'azienda, la verità, non se lo ricordo. Comunque sono in questo sito e vedo che c'è 1, 2, 3, 4 stelle, diciamo, il più gettonato e a quanto pare il più venduto confronto agli altri, c'è questo Cobra 29 LX multicolor, che solamente guarda è uno spettacolo. In realtà qui veniva prezzo originale, dice 149, lo stanno andando a 129.95, bisogna vedere. Multicolor, brava, frequenza, scanner, poi bisogna vedere anche cliccandolo direttamente le opzioni cui ci sono, perché non sono tanto bravo a tradurre l'inglese. Ecco, quanto viene a costare 129.95? Qui non bisogna dirlo. Comunque c'è anche la Reggio Emilia, poi c'è la Merlino, c'è la Reggio Emilia, quello dove ho dato io il coso, quello c'era ed è in Italia, capito? Quello dove le faccio portare io qui a Marrucchi. Faccio l'ordine, le cose me le porto immediatamente qua a Marrucchi, mi fanno arrivare qua in Sardegna. Dai, qui alla fine mi conviene, guarda, fai la cortesia, facciamo così, siccome dovrei vendere il mio Galaxy Saturn e se ti viene bene, giustamente senza impegno, se ti viene bene, guarda un po' questo apparato qua, quanto viene da questo di Marrubio, ci vediamo, se ne sono, me lo prendi tu, però mi devi dire se tu lo conosci bene, perché io non sono tanto bravo a leggere inglese, se questo qua oltre ad avere la M ha anche le bande laterali, questo apparato qua. Allora, io ti ho dato il sito, ProShell, come ti ho dato l'altra volta, quel sito lì. E, cioè, io ho tutti i DPA di quei baracchini lì, ce l'ho qua, ce l'ho a casa, il DPA, ce l'ho DPA di quegli apparati, col codice, solo che se ti dice quanto costa, capito? Se tu vuoi entrare nel computer, entri, e nel sito ti spaventi, quando vedi, ed è a Reggio Emilia, non devi andare in America, è a Reggio Emilia, ti spaventi cosa vedi di apparati, c'è dal monogatto a quelli, il magno che dici tu, 175 watt, quello con 45 watt, ce li ha tutti. Uno più attrezzato penso che ci sia in questo momento è questo qua, questa stagione di Reggio Emilia. Questo qua, io ho l'antenna 5000 turbo che ho in cambio, ce l'ho dal 2004, che portava apparate e roba del genere, e sono riuscito a fargli fare l'ordine a questo qua, perché questo non vendeva direttamente, doveva passare tramite un negoziante, capito? E perfetto, ascoltami una cosa, dammi tu, diciamo, una dritta nel senso, quando ci possiamo incontrare, se c'è il catalogo, giustamente, quando hai tempo che non ti disturbo, vedere un po' qualcosa, ci mettiamo d'accordo e poi me lo prendi tu direttamente, sempre se ti viene bene, ecco, ripeto, senza impegni, se hai la possibilità, tutto lì. E adesso meglio, adesso faccio la porta di mano, ma quando senti a Sandro di produttore, se tu ti fatti dare il sito, gli ho dato a lui, gli ho dato anche il DPA a lui, a Sandro, e adesso faccio la porta di mano, il DPA nel coso, che non mi ricordo più neanche il sito, entri e tu vedi, e ogni l'unico apparato, cioè il magno, quindi quello che dice le caratteristiche, cosa, e c'è un codice. Tu devi prendere quel codice e mi dice, a me mi interessa sapere cosa costa questo codice. Quella mi hanno rubato qua Celestino Prezzi, Celestino, a me poi mi fa sempre qualcosa di sconto. E lui qualcosa mi serve a me in giro della settimana ce l'ha. Se non lo arriva, capito? Massimo 2 settimane. Perfetto, siccome sono un po' senza sentito, ma quello di Porto Torres. Oh, non lo so, dimmi tu come ci possiamo organizzare, anche un fine settimana se ci incontriamo. Sempre se c'è il catalogo, lo guardiamo e poi mi dici un po' come la situazione. Io per lo meno ho già trovato la quinetta per il Galaxy, mi arrangio e diciamo i soldi ci sono e vale, me l'acquisto, capito? Qualcosa di recente, di bello, ecco, tutto lì. Comunque, siccome gli altri sono un pochettino da parte, fagli girare che non mi sembra giusto. Positivo, là. Ascolta, questo Saturneco quanto lo stai dando, o puoi dire? Guarda, 150 al massimo 200, non di più. C'è un paio di modelli, quello di Saturneco, quello normale, quello normale. E quello a 5 stelle. Quello che... Caparroccia, come quello ce l'avevo io, ma ce l'avevo più gemello io. E quello che sto usando adesso in questo momento, capito? Questo qua direttamente. No, l'ho venduto io, l'ho venduto a pieno oggetto e mi pare che poi a Moro quello di Budoso l'ho dato, io l'ho venduto, questa tonnecco lì, e poi mi pare che lui è andato a finire, l'ha dato un'altra ancora, se l'ha venduto, capito? Tu non sai quanto mi avevano fatto pagare a me questa tonnecco quando l'ho preso, 250 IVA, l'ho fatto pagare. Senza qualche altro non è un problema, tutto lì, vediamo un po' come la situazione, dai. Positivo, ma era nuovo nuovo, è il mio, era nuovo nuovo, aspetta, c'era qualcuno sotto, forse stiamo lasciando il parcheggio qualcuno, ma anche se c'è qualcuno altro, Giuseppe, ci sei ancora? Sì, io ci sono, già ci sono. Ciao Antonello, buonasera. Buonasera, ti sento piccino, piccino. Proprio ti riesco a tirarti fuori, Vabbè, hai capito, è così. Di so chi c'è, poi chi è arrivato oggi? Parchetto. C'è la Falchetto, poi c'è qui. Vedi, Giuseppe, quello è un bel apparato, la stazione di Saturneco, perché la corrente a 220, poi c'è il bande laterale, puoi andare sopra, puoi andare... faccia anche i mesi canali, giusto, i canali a faccia, adesso non mi ricordo, ce l'avevo, non mi ricordo più. CWFM, USB, LDB, poi di parte ABCDE. Quante volte va sopra? ABCDE. Due volte sopra va, giusto, e due volte sotto. Esatto. Vabbè, adesso... non devo fare grandi spese, capito? Non posso permettermi di comprare una cosa come quella che ha detto Alessandro e Antonello. Prima devo piazzarmi quella questione che tu hai già detto, piazzarmi quella questione là, e poi ci pensiamo a fare una dotazione. Dio comanda. Però allora aspetta un attimino, quell'apparato lei conoscerà, quello che stai modulando tu, Giuseppe, fermo un attimino, allora non è più quello, quello che sto dicendo io c'è l'eco, No, non è. Allora non è quello lì, non è quello. No, non è quello, questo è un micro amplificato che ha solo cambiato la cosa, la capola. Ecco la roba lì, non gli ho cambiato l'altro. Positivo, dai. Positivo, Giuseppe, no, quello c'ha un eco suo, c'ha nel colpo, c'ha un eco suo. Però corrisponde come me l'hai descritto tu, che te lo ho detto che corrisponde, ma quello voglio vedere lo stesso. Vabbè, non c'è proprio domenica, come scendo. Te lo porto e lo vedi. A parte c'è chiuso, No, chiuso adesso qua. Io non mangio da... non ne ho sonno, ma mi devo coricare, non ce n'è bisogno, sono proprio molto più romanzato. Ah, volevo dire che tutto il giorno va male, non è stato poco, sono stato alle 4 e poi sono stato a letto tardi, ma è un casino. Guarda, dai, ok, dai, DJ, se ci sentiamo domenica mattina a casa tua e andiamo a casa per domani e un buon giorno con la tavola, dai, e saluto tutti quanti, dai, e anche per me è arrivata l'ora e chi si... No, domani mattina alle 6, domani alto. Positivo, positivo. Oh, Antonio, ti saluto qua, c'è che io mi ritiro, che se no, non è che mi corico a forza, anche se non ho sonno, perché se no oggi stavo male, malissimo, perché no, ho fatto poche ore di lezione ieri notte, alle 4 sono riuscito, stamattina, domattina, poi ci siamo avanti alle 4. Vediamo un po' di organizzare la situazione quando c'hai, dai, almeno 10 minuti liberi, se ti viene bene fine settimana, vediamo un po' da cosa ne esce fuori, sempre se ti viene bene con la scusa che sei in giro, andare da quel tuo amico, vediamo un po' di organizzare, dai, dai, sono lì. Positivo, tanto come tra già a curiosare, dai, prosel.www, come fai così, come fa il sito, come mi adesso non mi ricordo più, comunque è così, fai www, chiocciola, no, forse non c'è neanche bisogno, chiocciola, prosel, una volta che dici di prosel, con la X, e trova già. Devo scrivere PROXL, PROXL, mi sa che non dimmi, Perant, Palermo me. Allora, PROXL, devi uscire, PROXL antenne, PROXL, BB 10 watt, PROXL 832, poi PROXL sensore, PROXL, PROXL, NFA 6055. E quelle lì, ci sono le antenne, ci sono gli apparati, dai, vai quelle lì. Cioè, quello lì, il sito è quello lì, è del Reggio Emilia. Perfetto, adesso vediamo come ne esce fuori, va bene. Dopo di apparati, ne? Come era la pizza, Antonè? La pizza l'ho presa. Ciao, ci sono, ciao, buon 144, devo fare. Come tanta fatta mia febbre, dunque la metà me la porto domani al lavoro e anche domani sono una mangiavo metà tanta. Ciao Gigi, buon 144, Gigi, buon 144, buon quel ritiro a parte della stazione Grotte, avanti a tu. Io sono tanto, mi saluto anch'io. Fatto un buon 144, non ho fatto QRX da parte del pacchetto. Mi saluto a tutti quanti. Ciao, ciao. Dov'è? Se tu prima delle due non vai a letto, un 144, ciao. Ma non senti il pacchetto, le prossime. Ciao, ciao, Antonio, le prossime. Io ancora ne ho fino alle 4 e mezzo, 5, 6 del mattino, Cavaroci. Le prendete, fate il vostro QSA, dai. Paruzzi, ben sentito, me ne ascoltato, alle prossime. Avanti, se è rimasto Leoncino. Attivo, registrato il break dal fondo. Come lo copi, Antonio, fallo venire avanti tu. E avanti con la buonasera. Ma cosa ho sentito quel filocchio di Antonio Brodde? No, sinceramente no, perché? Che sta cercando compagnia. Bullu, fammi una cortesia, che ho preso lo stesso microfono che hai preso tu, per non creare un po' di problemi, anzi ho preso quello superiore, perché io sono superiore. Guarda un po' come sta uscendo. Ma tu, se ti ricordi per il sito, cazzo, cioè, non ti stavo prendendo, ma per il sito. Ascolta, visto che il tuo vocabolo è limitato, fatto, quindi mi deve vedere i controlli, schifo o non schifo, ma che cosa gli senti esattamente? Praticamente sembri, cioè il tuo spirito fosse al vuoto, è come se non avevi niente, cioè la capsula è senza una protezione, diciamo, ecco, una spugnetta, così sto dicendo. Cioè come se tu prendi un microfono, per esempio il mio, no? Io gli devo dare il bottone e pungi come te. Invece essendoci il bottone, la radio c'è più bella, più, come si dice, più, ma non mi viene la parola, vabbè, comunque più pulita, ecco, dai. Perché hai usato il termine cottone e ovattato, derivante da ovatta, termine anche per definire la pianta del cottone. E guarda un attimo se abbasso il tono, perché io ho due manopole, guarda un po' se vado giù. Non mi piace tu, non prova, riprova, dai. No, allora è da aprire, sinceramente, e guardare un attimino, di girare la modulazione dell'apparato stesso, capito? Diciamo che è comprensibilissimo, non è che sia, però è un po'. Cioè siccome come se io prendo, guarda, ti faccio un esempio, metto il microfono normale di questo apparecchio e vedi, senti come esco. Porta, ma tu lo stai usando col K? Sto usando il mio K4 col K, sì. L'hai preso lo spinotto del K per fargli i collegamenti? Lo spinotto del K l'ho preso da Fusaro. Che non ce l'hanno, da quante scusa? Da 9 o da 8? Da 8, l'ho preso lì, quello non ce l'hanno, i carri non ce l'hanno. Ragazzi, allora ho sbagliato io perché gliel'ho chiesto da 9 e mi hanno detto che ce l'avevano solo da 8. Da 8, e le connessioni sono facili da fare. Ce le ho scaricate anche da internet, comunque stiamo lasciando gli altri amici in parcheggio. O lui, ti chiamerò per farmi un controllo magari in seguito, dai. Perché mi sembra strano, cioè mi sembra strano che stia uscendo così, quindi è una questione stazionale, è una questione dell'apparato che è vabbè, questo qua è l'apparato che è, quindi la modulazione è quella, capito? Avanti Antonello, chiama l'amico che ha fatto che ha breccato, dai. Ehi, avanti Antonello. Mi sa che non c'è. Dunque, c'è anche Antonello, non so chi ci sia. C'ero prima come sono sentato un po'. Sono a mangiare e niente, dai. Allora ti ripeto Antonello. Ehi, ambulanza. No, io sto venendo a questo sito Croce, però mi dice sensore di parcheggio. Sto cercando qualche altra cosa per stare in questo sito. E non ho fatto cercare in questi apparati cosa c'è di bello. Cerchiamo sempre, guarda. Ti stavo ascoltando lì su canale 7, ma tu sei preso per il magnum. Ma la verità, proprio per il magnum no, la verità sono un po' indeciso, la verità. Perché non volevo andare. Io ho visto questo Conex, non so se ce l'hai presente. CX36, 40 canali. Che ma già l'hai preso, dovrebbe venire sui 150 euro. Che viene 189,95 dollari, esattamente trovare il sito o un negozio per acquistarlo, ecco, ma sono dei belli apparati, perché c'è qualcosa di decente, dai, che dovrebbe far fare la vita al turista, c'è qualcosa di buono, bello anche da usare, da vedere un buon prezzo sul turista. Vedi un po' tu al mare un piloppo. Sì, quello sì, ma c'ho talmente tanti. Che bisogna devo leggere con calma, decidere, valutare un po' la situazione, prendere qualcosa che sia adeguata alle mie esigenze con tutto lì. Sono dei soldi, poi qualcosa. Invece vai a fare con quella, secondo me, quella era grande, come ci andando adesso. Ma che compra un po' la spendere di soldi, se lo vuoi prendere perché ti piace, no, qualcosa. Non c'è problema, capito Antonio? Poi, ripeto, ognuno può fare quello che vuole. Ma questo è considerato che il baracchino non è che stanno più di tanto, se non organizziamo una bella ruota, se no stadio andando a morire, ogni tanto ce non lo trova mai nessuno. Sì, guarda, io sono pienamente d'accordo su quello che stai dicendo tu, per carità. No, io dico, non sono una persona ricca, però io per le mie cose ho fatto sempre così. dato qualcosa di buono, venduto, ho recentolato, spicciolo a spicciolo, avevo smesso anche all'epoca di fumare, se comprate qualcosa di decente, al posto di prendere sigarette mi mettevo la parte e mi prendevo quello che mi piaceva. Vai, io aspettavo, non è che in 4-4 me le compro le cose. Vedo, vado, lo metto da parte, poi al momento giusto, quando ho l'occasione giusta, sono arrivato al tanto e me la prendo. E quello c'è il mio modo di fare. Poi quel fatto di accendere gli apparati, che non c'è mai nessuno, c'è la verità, per il momento è così. Poi, se tutto va bene, che funziona quello che dovremmo costruire, speriamo dai, di risolvere un po' la situazione. Se tutto va bene cambierà idea, e se tutto va bene. Comune, il posto c'è perché nella zona in cui sono io ogni anno li fanno, nella zona di dove abito io, vicino a casa, perché lo spazio c'è, poi ci vogliono i balancelli, i vigili del fuoco, giustamente per la sicurezza, e i GB per controllare la situazione. Bravo, ma infatti io li avevo visti e molto belli lì al campo di calcio 2 anni fa, perché l'anno scorso non li avevate fatti, se non sbaglio. Esatto, io abito proprio in quella zona lì. Li belli davvero, perché li avevo visti proprio da vicino, perché ricordo, forse non era 2 anni fa, forse qualcosina anche di più, Esatto, no, è proprio in quella zona lì. Sì, proprio lì, io abito lì, linea d'aria 5 metri da lì, vedo perfettamente, senza uscire da casa, dal terrazzo, vedo tutta quella zona lì. Adesso per dire, guarda, sono stato in questo sito, Magnum S9, nuova versione, italiano, prezzo, cacchio quanto costa, 389 euro, disponibilità buona, e questo viaggia in 50 parte. In SCP 25, in AM e FM. Dio mio, spaventoso. Ascolta, ma le sagre non le facciamo lì a Ussi? Delle sagre, sì. Adesso quest'anno fanno sempre la sagra. Quest'anno fanno la sagra della lumaca. Aspetta, eccolo qua. La sagra della lumaca, la sagra della pecora. E poi fanno music art, non so se l'hai mai visto, che viene organizzata dalla consulta giovanile. Ogni anno vengono molte, molte persone. E trovi qualcuno che è interessato a affittare strumentazione per ambulante? Già chiedo, un po' di persone già le conosco, non costa niente chiedere. Ti spiego cosa succede, in breve io affitto macchine come possono essere quelle dello zucchero filato, dei popcorn da usare nelle sagre, e dopodiché la persona si fa o a metà con i guadagni oppure in percentuale. Ecco, vedi, questa potrebbe anche interessare, perché prendono un po' di tutto questa consulta giovanile, mettono sempre qualcosa di nuovo ogni volta. Io ne conosco tantissimi di questi ragazzi che in questa consulta, che poi sono aggregati anche col comune del paese, giustamente di Ussi. Ti chiede e ti faccio sapere. Roger, Luca, hai finito di sfasciare il computer? Parchetto, mi ascolti? Chi è che va a parchetto? Chi è? Mi sembra che stai uscendo da un'altra tomba, chi è? Avanti. Parchetto, Angela 1, parchetto. Ah, fratello 1, mannaggia la piccolina. Ma oggi il cacciavite non glielo puoi dare quell'apparato? Non ho capito, caso. Ho detto un giro di cacciavite non glielo puoi dare quell'apparato, Antenna 1, Capparocci. Questo forse non male, un pezzo male. Ah, meglio a me. Allora, saluto l'impresa Antenna 1, c'è Antonio Grotte e Antonello da Ussi, dai. Vai per chi vuoi Antenna 1. Grazie, sono contento perché dati non mi sento. Tu mando saluto agli altri. Antonello, Gianni e tutti. Ok, già, fa che? Scusa. Aspetta. Allora, ma va bene che va bene, eh. Vi saluta Antenna 1, Sento molto, molto, ma molto piccolo. E KK. Ascolta Antenna 1, ma sempre quella zona stai modulando via Roseto? Sì, Caparoglio. Ok, sento sotto. Dai. Cappa. Mettiti l'antenna buona, mettiti l'antenna buona. Dai a me retta. Cappa, dai, un attimo di bianco, vai, da parte mia. Più avanti, va. Se mi ascolti, non lo so. E ti ascolto, gli altri che ti ascoltano un po' piccolino, capito? Vabbè, quello non si fa niente. Faccia fretta. KK, un attimo di bianco, Io sono qua sempre. Ma di andare a nanna. E mo' andare a nanna io. bene, vado un attimino al QTH piccolino e niente, mi scappa la pipì. Ma già me ne immaginavo, io voi vedete voi a dolore massa, superficiale no, a cagare sì. Oh no no no, magari no, mi scappa la pipì. Riprendo subito. Riprende Antonio, fa girare per Antonio Drone e poi non so se stia combinando l'ultimo, boh, vabbè. A dopo, a dopo. Si sta toccando guardando le donne nude sul computer. Minimo. Senso. Una antenna che si attacca alla PM, una antenna Elisa, che antenna è? Antenna portata da 95 ala. Allora, da 5 portatile. Sta per compreso, mamma mia. Ah, che c'è antenna? Spagnoli, portoghesi, non so. Senti, ala 95, portatile. Ma tu stai facendo un portatile? Ok. Ho detto un portatile, sì, antenna 1. Sì, sì. Ah, per quello è, per quello è che dico io. Quale? E che portatile c'hai? Che portatile? Ah, e ma che? Ala Mitra. Mitra? Sempre, sì. Ho antico, ma funziona. Ok. Se ne volevo dire, ma ti ricordi ieri quando era stato, io sono andato con mia moglie al Forcante, no? Poi siamo sotto in macchina, abbiamo fatto un giro da cinesi e poi abbiamo preso la tavola per casa, ho acceso l'apparato, no? Era poi davanti sul 5 e mi stavo ascoltando. Da quanto stavi ridendo tu ieri, non ci mi manco a parlare, anche mia moglie ridendo, no? Come se mi fate ridere, ma questo sempre riente. Io adesso non ho capito bene che battute stavano facendo per tu ridere così tanto. Ti ricordi? C'era Claudio Spavino, sì. C'era Claudio con Leoncino, super, super Leoncino. Stavo parlando del sindaco del Plaia. Ma Claudio, guarda, ne ha detto due o tre, io guarda, non riuscivo più a parlare, ho iniziato a ridere, boh, non ce la facevo più. Infatti è contagiato Patrizia, ammetto sempre lì, e dice, guarda, come se ti fate ridere, tu ti ridi da Prato, Mimi, non mi la paga manco a ritirare a Prato che ti riende. E conto, ho fatto il tragitto da Predaniel, da Ossi, conta quanto era, un quarto d'ora, fai una cosa e l'altra, andando 80, sai che ci aveva messo un quarto d'ora, ma da casa sempre niente. Oh, e se lo dici, oh, poi Claudietto è omicidiale, no, quando si parla di sindaco di Plaghe, con Leoncino io mi piscio sempre addosso, perché guarda, talmente sfigato quest'uomo che ne combina di tutti i colori. Cos'è proprio un sindaco veramente di Plaghe questo, sì? Sì, proprio in realtà è proprio il sindaco di Plaghe, ma c'è una sfiga addosso che, guarda, non viene a me da dirlo. E in poche parole qual è la sua sfortuna? Allora, la sua sfortuna è dove va lui, dove mette i piedi lui, deve sempre succedere qualcosa. L'altra volta dice, non so, stavo facendo il tragitto a Chiaramonti a Plaghe e sentiva e diceva al collega, ma diceva non sento questo rumore, no, diceva non sento, forse abbiamo buccato, diceva il sindaco di Plaghe. Tutti i picchetti li ha buttato dall'inizio fino ad arrivare a Plaghe, tutti i picchetti li ha buttato. Non è molto male di avvero. Sono azienda. Poi un'altra volta lo stesso, stavo venendo verso Sassari, verso la chiesa di San Casale c'era un incidente, no? E c'era un po' di vetture ferme, prende lui, in pieno a tutte e due li ha presi. E mia moglie me ne immagino raccontando così da Claudio, poi come racconta, poi per come parla lui già. E me ne immagino come le fa diventare grandi le cose, no? Allora, l'altro giorno a Plaghe, c'era la festa a Plaghe, è salito sul palco, guarda, cade la madre in gesso alla madre. Non è possibile. Guarda, di una sfiga totale, guarda. A noi fa troppo ridere, come dice Claudio, perché è omicidiale, ma a me fa troppo ridere. E poi non riesco a parlare, al baracchino, fa troppo ridere. Ma sei già, era lui che teneva rede della situazione, compreso, come parlava lui subito, ti ridendo. E poi siccome talmente, siccome era nella zona lì, la linea d'aria, era talmente forte che era satura come modulazione. E dunque cercavamo di capire cosa diceva, alla fine, e avevamo capito bene che poi alla fine era il sindaco di Bloaghe. Allora, no, ma stiamo cercando di fare tutto per fare sposare Giuseppe Capito Leoncino con la nipote, che niente, dice da poco si è fatto le mesce, si è fatto i capelli, sembra la famiglia Adams. Come oggi che a quello di Chiaramonti è chi lo chiama minestrone, chi lo chiama patasciutta, è poco si incanta, non tanto l'hai. No, lui è omicidiano, un po' ti esce, lo vedici, un po' torna a breccare, esce piccolino, insomma quest'uomo sta sempre sposta, sposta, è una cosa allucinante, guarda tu, è una cosa veramente allucinante. E niente, di nuovo che manca, vieni sia a quella manifestazione. Chi? Quello di Chiaramonti? Oh, tu avevi. Eia, già vengo già. Salve imprevisti, abbiamo organizzato tutto. Non c'è nessun problema, salve imprevisti. Per il momento tutto a posto. Ho capito, con Gigino si è parlato, sì. Sì, mi ha parlato che non c'era nessun problema, non c'era problemi di dati, prenotazioni e cose varie, ecco. Poi nel caso un giorno prima mi attacco, già stato meno male, già sono sempre in ascolto, in macchina a casa, anche se mangiamo, già sempre acceso l'apparato. E un giorno prima là mi chiamo e poi vediamo, diciamo, il punto giusto dove incontrarci tutti insieme, capito? No, ma che stavo dicendo al Giappe, era il punto più bello, più bene, diciamo, il punto in cui dove la gente che arriva magari da Vozzini, da Pantata, con le zone lì, è un punto di ritrovo, stava dicendo Gigino, capito? E comunque là non c'è problema, quando un giorno prima, capito, ci si parla bene, ci si dice dove, ci si dà veramente l'appuntamento dove ci si deve incontrare. Come non mi volete portare? E magari, basta venire. Sto dicendo, già alla fine, dove c'è Gigi, lo conosci quel piccolo bar dove fanno i panini, che fa sempre i panini di cavallo? Cioè, lo conosci? Quello pasottino operato con i baffi, Gigi. Chi? Ah, non lo conosci, vabbè, comunque io quando avevo la Tilocca, ero in quelle parti lì, andavamo a Giave, dove c'è la fermata del treno, che ormai è chiusa, comunque lì c'è un piccolo bar, che molto prima, diciamo, del paese di Giave, no, rimane in periferia, e c'è questo piccolo bar, dove fanno i panini con le fettine di campana, andavamo sempre lì a mangiare. Comunque siamo lì alla fine per il piglio di Giave, dove c'è quella specie di spartitraffico. Senz'altro. Aspetta, forse ho sentito un break lontano, non vorrei che sia domenico. Domenico, sei tu per caso? Aspetta, fa antenna 1, sono vivo Ehi, Domenico, dai, tutta la grande sta arrivando qua, mi stai sblatterando tutto, miserios. Kappa, Domenico, in compagnia di Antonio Grotte e di Antonello da Ussi. Tutto rosso, Domenico, c'è anche antenna 1, ma antenna 1 è piccina, dai, dovrebbe cambiarsi un po' l'antenna. Kappa rosso, Domenico, di rientro, Domenico. Salve, saluti, Rocchetto, perché non lo sento. Stai uscendo alla grande, cazzo, Domi, sì, una bomba, sì. E che ha pagato. Antonio Grotte, senti a Domenico, di rientro da Urbia. Ti passo, vieni avanti Domenico, se mi ascolti. Domenico, ascolti Antonio Grotte. Negativo, passo QRM, proprio niente. Vai a tu che ti ha rilanciato. Lo sento basso, non ho capito se lui riesce a copiarmi. No, lui lui ci copiava, però a me mi copia, ma a voi vi copiava a me, se io sono un po' passini, ma già vi copiava. Vai avanti se riesci a tirarti fuori, Domenico, vai a Antonio Bro. Guarda un attimino se riesci a tirarmi fuori, 1, 2, 3, 1, 2, 3, al momento anche di microfono, ma poi ti inizi a frusciare. No, magari no, eccolo lì, no, guarda un po' Domenico. Copiato Domenico, Antonio Grotte, se no ti rilancio Ussi, Ussi dovresti copiarlo, e vai Antonio per Domenico. Buonasera Domenico, se mi copi da Antonello, moderazione Ussinandia, buonasera se mi copi. È molto, molto, molto piccolo, lo sento, quasi riesco a tirarlo fuori. Sì, molto piccolino. Comunque, buonasera, Ti ha copiato Domenico, ti ha tirato fuori, per i capelli, Antonio, ti ha tirato fuori, però già ti ha copiato, Come mai te lo senti così bene? Eppure, meno male, siamo in linea d'aria. Uguali insieme a te alla fine, dai. Una buona stazione, Antonio, fai bravo. Va bene, ti chiedo scusa, dai. Lo sai che il mio falchetto si fa sentire dappertutto? Vabbè, io ti auguro, ma c'è cosa che sono un po' di allenato, non lo faccio più. Sto scherzando. Dove sei arrivato? Sì. Stavo dicendo, Dio Falchetto, c'ha una Lancendo Plus con una boomerang, no? Regolari. Cappa. Ehi, a domani la cosa è positiva, di Russo Cappa Roger, vai, salitina Ardara. Cappa, cappa. Niente, Antonio Gro, io ho un'antenna, un semplice apparato e un alimentatore, basta, tutto lì. Si sente, secondo me quando inizi a modulare le puoi spegnere la luce anche ai neri che ci sono di fronte. No, vai tranquillo, io sono liscio come l'olio. Provare per credere a tu. Stiamo sto scherzando, già si sente d'altronde. Sì. Antonio, non si tia. Ma adesso avrebbe sentito bene anche l'amico lì di Ussi. Ma tu, lo senti adesso Domenico? Sì, dovresti sentirlo. Sì, adesso sì, adesso è bello tranquillo. Non è tanto forte come radio, comunque ha migliorato come segnale. Penso che dovrebbe sentire anche a me. Domi, ci sei? Falchetto, sai, anche non lo sento, Antonio di Ussi, quando saluti. Adesso lo tiro fuori anch'io, domenica non si riesce a copiarmi adesso. Dove sei adesso, dove ti trovi, perché sembra che sei salito, Di Roger, stai arrivando forte e chiaro, con un Santiago basso, ma una radio comprensibilissima, dai, avanti Falchetto. Positivo, hai anche Antonio Grode, ti ha sentito la grande, Domenico. Cosa hai fatto, Domenico? Bonello. Mai. Ringraziate, sì. Mi non sto vicino a farmi ridere, se no qua. Vabbè che tutte le ore sono di Dio, ma... A cultura di notte la disegna con cari uno e pensa da questa cosa. Va bene, tu, io. No, ma Domenico c'è una buona stazione, troppo bella, a me mi piace molto. Io infatti sto cercando di farmela vendere, ma Domenico non me la vende, così Domenico. Va bene. Ya, non le dico più quelle parolacce, dove? Eia, ya, ve l'ho fatto. Falchetto. Eia. La cena, sì. Ehi, sì, i soldi ci vogliono, Domenico, i soldi ci vogliono. questa che poi avevo sparato a 1400. Bomba si sta alzando dal bailame e sta arrivando come non mai, dai. Vai in passaggio e rivieni avanti dove. D'accordissimo al 100, dai, stai arrivando sempre più, ma sei, stai arrivando verso Sierra Sierra, sì. Papa Roger, c'hai un'amplificazione che ha bomba, è un eco che idem con Patacco, Kartoffen, stai uscendo davvero bene, dai, stai arrivando bene qua, zona Sierra Sierra, Ponte Nuovo. Ti ascolto Portechiaro, qui Antonello da Ossi, sì, ti sento molto molto bene adesso, è sicuramente in una zona negativa, e niente, dunque stai rientrando e tra un po' vai a Nanna, così. Allora ti do tutta la mia comprensione, dai, e un po' di coraggio per ancora affrontare questa metà di lavoro, dai, così dai, ti rincuoro un pochettino alla fine. Positivo, oggi c'è anche un pochettino di traffico, porca miseria, ragazzi. Io faccio una storia avanti, la volta mi la muovi in culo. Vale, così, au, ma cosa sei, carico o scarico, dove? Se vi faccio gli affari tuoi, ma tu mi hai detto che oggi sia alle 4 del mattino rimane sveglio, ma non hai sonno oppure domani sei a riposo? Deve panificare. Oh, guarda, io Domenico è testimone qua, io il mio sonno è pochissimo, io basta dormire un paio d'ore e poi sono a posto, ma quando ci sono gli amici non si dorme. Ah, così, e dormi solo 2 ore e ti passa tutta la giornata? E allora, chi dorme non mangia pesci, Antonello. Sì, ma là, io non ci riuscirei a fare solamente 2 ore sveglio, ma forse l'abitudine, un po' di tutto alla fine. Poi te l'ho chiesto, ma com'è possibile? Questo si può ricare alle 4 di notte e ti deve pagare. Kappa, è così. C'ho un sonno leggero io, già tutto il giorno questi tamburinaggi qua, provando, facendo le prove, non ho... Col caldariere mi soffende, lo capo a cacco. Meno male che ogni tanto si passano anche loro, dai. Guarda, non sai cosa, quando ero solo con le vecchie, c'è questa paraglia, per dire, dai, qualcuno meno male, diciamo, a quella della notte trovi sempre qualcuno a fare compagnia, sì. Sì, io la grande. Dove sei arrivato? Kappa. Vai, Grolle, vai. Ti stavo dicendo, si chiama insonnia, perché insonnia, ed è bene un attimino curarla, eh? No, ma tranquillo, io quando devo dormire dormo, stavo scherzando, quando devo dormire dormo, non soffro di sogni io, assolutamente no, eh. È una malattia grave mia, è una di quelle cose che però va tenuta sotto controllo, perché sennò non riposando bene poi ne derivano tutta una serie di cose, perché minimo che si deve fare sono 6 ore, 7 ore a notte, sarebbe ideale 8, dopo le 8 ore sono tutte in più. Ma io ti dico che l'ideale sono le 8 ore, però niente, io quando riposo quelle poche ore sono a posto, non c'è problema. Controllo di qualche altro, sai cos'è, che te la vuole di più la vita? Se metti fai un giro di calcoli la faccio più dormendo che vivendo sveglio, dunque alla fine, dai, qualche ha fatto più vita di noi, alla fine. È così. Ragazzi, io ho fatto 1000 mestieri per dire e mi sono adattato un po' a tutte le ore. Eh sì, e poi alla fine è sempre questione di abitudine. Poi volevo dirti, Grote, che cerchiamo, dai, un pochettino di mettercela tutta, avere un po' di fortuna e vediamo un po' di riuscire nel nostro intento, che ci sto pensando ancora. Guarda, considerando che sono nobili intenti, assolutamente io sono già convinto e sicuro che andremo in porto, quindi non c'è problema, non metto neanche il dubbio, capito? La mia presunzione mi impone di dire che vinceremo. Guarda, la verità lo spero tantissimo, lo spero tantissimo perché per il mio modo di vedere è una cosa abbastanza positiva, tocca a noi alla fine, dai, usare un pochettino di materia grigia e basta, se si usa quella le cose vanno avanti, speriamo che nel completo tutta la situazione ci sia un po', non tanto, un pochettino che ci sia, tutto lì. Mi sono reso conto, sai, è una vergogna, devo dire la verità, perché se entri nel sito della FIRCP, tu vedi che quasi tutte le città hanno comunque un'associazione dal punto di vista della CB, della 27. Ora, se stiamo parlando di zone tipo Cagliari, tipo Oristano, dove comunque la 27 si è spenta, non v'è dubbio, non ne vale la pena. Però dico, si sta riaccendendo, stiamo mollando questo computer che ti ammorba solamente e ti ottenebra la mente. Allora, dico, se c'è una cosa che, se vogliamo, ha il suo aspetto positivo, che è quello di educare comunque, perché comunque ti devi mettere nella condizione di parlare una alla volta, non so se hai notato, che quando eravamo in bassa stasera, siamo stati due maleducati entrambi, perché ci parlavano uno sopra l'altro, non abituati nel momento, quindi ci interrompevamo, cosa che non può capitare mentre stai modulando, capito? E quella è, comunque educa anche quello. Sì, sì, quello pienamente d'accordo, giustamente bisogna anche tirare fuori, diciamo, quelle frasi che all'epoca ci usavano, che io personalmente non le conosco, dico la verità, dunque mettere anche avanti di nuovo, come ti posso dire, come se fosse il latino, ecco, un esempio, una lingua antichissima, anche per questo giustamente qualche frase ancora si usa, tirare fuori anche di quelle frasi che si usavano all'epoca per modulare, e anche quello è una buona cosa per riprendere alla fine, che mi sembra anche la cosa più giusta, dai, usare quei termini adeguati che si usavano per la 27, e sarebbe bello anche ripartire anche su quel lato lì. Da Roger, ma infatti guarda, poi ti ripeto, le idee saranno tante, vedremo di vagliarle, è stata ottima quella che hai lanciato stasera, che mi hai detto stasera, per me sarebbe interessante anche considerando che comunque la CB, la frequenza sassarese ha avuto nobili natali, ha avuto nobili persone che hanno partecipato, come può essere Cossiga, come possono essere comunque altre persone che avevano il titolo di OM oltre che di CB. Cioè, fare un piccolo museo dove mettere apparati di una certa datati, diciamo, e poter fare delle visite, delle cose un po' particolari. Poi tutto sta se riusciremo ad avere una sede. Adesso stiamo un po' campando, facendo un po' di sogni, però speriamo bene, ecco. Io ci credo, e ci voglio credere, tutto lì. Poi spero che Falchetto ci sia anche lui, che mi farebbe molto piacere. C'è problema. Si vedrà. Vediamo un po', abbiamo lasciato un po' in bianco a Domenico. Domenico, dove sei arrivato? Caparogelo. Sì, è una buona iniziativa, una buona idea. Si potrebbe anche fare. Negativo, non si potrebbe, si fa, e assolutamente la tua partecipazione è d'obbligo, è per esperienza, è per una questione di aiuto, assolutamente. Sì, pienamente d'accordo con te, solo che purtroppo, io dico purtroppo perché così, ci sono delle persone che non si va d'accordo e tutto qua, capito, la mia partecipazione vale ma non vale fino a un certo punto di vista, ecco, tutto lì. Dire vale o non vale, il problema, il bello di qualsiasi cosa è l'eterogeneità, cioè non essere a senso unico, due persone possono anche far parte di una stessa associazione, come modulare in una stessa frequenza e magari non avere un'empatia, una simpatia particolare, quindi si possono anche non frequentare, ciccia, però sai, far parte comunque di una stessa associazione, comunque non è più nemmeno come succede in una famiglia. Io ho delle persone in famiglia con cui non vado d'accordo, non per questo le rifiuto come parenti. Sì, pienamente d'accordo con te. Pienamente d'accordo con te. Sì, adesso è da vedere, dai, da vedere. Ci metteremo nella condizione di fare un'offerta, poi chi vorrà aderire bene, cioè sarebbe un peccato, non creare una realtà, perché ci siamo come in uovo, perché sennò questi apparati poi ritorneranno piano piano all'interno dell'armadio, capito, a prendere polvere. Capparoccia. Ok, vedremo. No, io sono d'accordo per questa associazione, perché è una cosa utile per ogni punto di vista ed è una cosa molto interessante. E poi vedremo, cammin facendo se si aggiusta la strada, diceva quello. Assolutamente, infatti sarà un work in progress, come si dice, cioè un lavoro in progressione, come si dice in inglese. Riprendi l'Antonello. E io niente di niente particolare. Lo parlo anche con mia moglie, anche lei, problemi non ce ne sono, ripeto, anche per quello che ti ho proposto, non c'è nessun problema. Nel caso alla fine bisogna dividere i compiti per il fatto di rimanere in ascolto per alcune emergenze. Diciamo tutto funziona, per lei non c'è nessun problema, lei va benissimo, niente di particolare. Va bene, vediamo un po' di aggiornarci piano piano e ricostruire partendo dalle fondamenta, come fate muratori, con calma e senza problemi, dai, ok. Avanti Domenico, se ci sei. Io non lo sto copiando. Stai dicendo Domi? E siccome devo dare una piccola pulita al microfono, ogni tanto si inceppa e diciamo rimane il segnale, vado per far uscire la mia voce. Adesso dovrei uscire. Scusa, ecco, ho toccato io qualcosa, guarda se va bene adesso. Scaricare, attaccare a Fredanieta. Io positivo, non so quanto. indovina? Di quelli vinti all'asta? No, io non lo compro, Sobbi. Io compro direttamente da radioamatori, compro. Apparato è? Questo è un Trista 848, chiarito. È un apparato. C'è l'entrata, dottor. La radio va più che bene. L'apparato che avevamo detto a Domi, il problema è che sto uscendo con un intake 120 plus, che è un apparato da 70 euro, costa più il microfono dell'apparato. Tipo io ho già trovato, sai, non sono nel mio QTH, perché io di solito modulo, ho con questo apparato qua, ma quando non ho voglia di tirare fuori il trattore con i cingoli. Ho capito, no, io ce l'ho tutto in cambio, basta, io modulo solo le cambio. Se lo trovi fuori a casa, la stazione, aspetta l'entrata gentile. Taglia, vai, vieni avanti. Adesso vai, perché mi ha offeso, appunto un po', ho fuori tutto. Ciao, capito dove chi è? Bello. Ci ho capito, dai, scusate che ho provato, ma c'ho tre cose, io quello subito. Ciao, salutone. E tu mi stai copiando? L'ho comprato da Fusaro, però mi sembrava mezzo manomesso questa cosa, Poi gli ho dovuto fare un giro di cavetti perché non riuscivo a uscire. Come ti sembra? Più bene la verità, perché che apparecchio è? Non è l'apparecchio, il microfono, l'MB più 5. Ah, esci bene comunque la verità. Come al solito, ma perché c'è questo beep, questo Roger Beep Moscio? Vedi? Da G diffusa, cosa vuoi dire che io? Ma come sto uscendo comunque bene, cioè è l'uscita dell'MBP 5 e questo è un attimino gaggato, come si vuol dire. Parti dal presupposto che c'è un po' di stazionari, Dai, sì, beh, non preoccuparti. Sì. Ma dirò, oggi era avanti Falchetto per Pomponio, che oggi ha finito presto ed è tornato a casa presto dal lavoro. Ho capito, Pomponio però si è dimenticato di salutarvi attenti, E come ti ho visto di attenti a te? Ah, sono passato a Vespolo, mi hai visto? In verità no, stavo cercando quel guasto di cose di Mario Fine e non ci ho fatto caso, la verità. A parte non c'era, io ti ho stampato la scala, quindi... No, ti ho salutato, sono passato con il motorino lì e... tu hai proprio forse l'attimo che hai sentito Pomponio, ti sei un po' girato, ma no, non c'è fatto più. È molto che l'ho visto. Ho fatto un ciao veloce, la verità, perché non sono neanche riconosciuto. Ti ho visto salendo proprio, stavi appena salendo lì di attento, senz'altro me lo sono immaginato che era da Mario, ti ho chiamato, ma forse non mi ha riconosciuto. Infatti te l'avevo riconosciuto per quello. A te secondo che hai dato una scheda veloce, e così me ne controllo. Scappa. Antonio Pomponi, se mi senti, vedi un po'. Antenna 1, è troppo tardi. Antenna 1, mettiti una bella antenna, comprati un buon apparato, e così c'è la grande. Magari, piano piano. Fuma di meno, vedrai che riesci a mettere a parte i soldi. Se come gappa. Fuma di meno e tomba di più. Antonello, buon gente. Antonio ha detto se lo senti a Antenna 1. Non lo sento, ma quello è maniaco. Meglio che non lo sento, se mi dica la dire mi avvesa a me. Che Gava, gava. Gappa, gappa. Gava. Sentimi, Pompions, senti, il problema non sai che cos'è, ti devo telefonare per quella cosa di quel tabacco, però questo rincoglionito, se ti dico cosa l'ho fatto, non ci credi. Cioè, me lo immagino, per risparmiare se l'ha fatto una sola, quindi non c'è nessun problema. No, il problema c'è, perché a me mi deve i soldi adesso, perché io ho comprato quella cosa che mi stavi dicendo stamattina, ieri, quando è che ci siamo sentiti? Fatti vedere il mio aveva proprio sbagliato, non aveva attaccato la spina dell'amplificatore, capito? Ce l'aveva già, era già tutto predisposto, questo rincoglionito non aveva attaccato la spina. Hai visto, vai. Ma fa una cosa, tu sai che mi hai tutto da sopra, così dove è l'eccedente e sei a posto. E ti rifai su dove sei messo. Negativo, io ti ripeto, a parte che ci rimetto la parola con te che ti avevo già allertato, ma a prescindere da quello, siccome io non mi intendo di queste cose, mi hai detto di comprare questa cosa, lui mi aveva detto assolutamente che mi copriva dal punto di vista economico, e adesso se lo ottiene, vado domani mattina, glielo do, anche se non si rimbalza di nulla, però me lo paga. Perfetto, per quello, se secondo sta arrivando subito. Cosa, la prostata è quella, eh? Aspetta un attimo. Perfetto, senti, avanti. Io ti sta chiamando Antenna 1. C'è Antonello, se lo fai un bel impianto, ti ho grazie. Ando. Non per lui. Vieni avanti. Antenna 1. Dimmi, sono ascolto. Capo, ascolta, ma non c'è niente da fare adesso, vai, fa una cosa, vai a coso, ti porto qua, pigliami un pacco di tabacco, poi venite a baracchino, siamo a posto, dai. No, appena. Ma come la sta trasmettendo da dove? La piattaforma, io vai un secondo, pigliami un pacco di tabacco, vai a fare un culo e quanto sei. Antenna 1, aiuta. Già pago dopo io, già mi dico, mi manda piccole. Cappa. Niente, ho ripreso e vi saluto, dai. Buon questo, buon tutto e ce la riassoltiamo, dai, Farchetto vi saluta. Qui che è più forte di te, ci sentiamo fra un quarto d'ora qualche. Cappa. Mattia, questo del baracchino è una droga. Avanti, quel drogato di Alessio, buonio. Aspetta, secondo me faccio una pena, risultiamo subito. Siamo parecchio. Tra 25 watt fatta. Attenzione, antenna 1. Quanti? Ha risposto me. Avanti, ha detto a dirgli che bisogna berlo con la forchetta. Dimmi. Anzi, avanti, antenna 1, ti svegli. Torne. Dirò, Gerico, non ho copiato il passaggio, ma sta ancora parlando antenna 1. Ti stava parlando, ma magari avevo avuto un po' di più, dai. Infatti gli ho detto, mi vedo la forchetta. Te ne dici con un cucchiaio di due. Parte dal cucchiaino, forchetta a coltello, e dopodiché con lo stecchino. Che capparoce. Come ti arrivo lì, grotte, in quelle coordinate? Ma ti dico la verità, non c'è differenza, dal mio cucchiaio a questo. Positivo, il capparocero. Ok, passo. E a Antenna 1, cata, stai uscendo tutto sempre, ma hai bevuto stasera, dimmi la verità, hai bevuto? No, come dovevo bere. Ah, non hai bevuto una forchetta, hai bevuto un bicchiere. No, quella canna ha bevuto. Vai Antonio, va. Dammi conto che voi uscendo con questo GPP come si apposta. Ah, buonissimo. Perfetta. Vale, ma capito, dimmi. La città, sono. Oh, aspetta un secondo. Papà, dimmi. Arrivato a Natale. L'hai preso la sonda, eh? Arrivato a fare, mi hai detto. E preso la? Non ti capisco. Non sento. No, io chiudi. Dimmi. Non capisci, aspetta. Stavo innescando, cioè c'era un rumore prima dietro, adesso sta andando bene. No, no, aspetta. Ok, dimmi. Passata, sentimi un attimo, parla con l'antenna 1 che ti sta chiamando. Il fatto che stavo regolando questa scheda, quindi c'è ritardo. Se tu parli su fuori non ti capisco per niente, capito? Il discorso è questo. Adesso l'ho eliminato e basta la scheda. Fa di rogliolo. Antenna 1? Prego, dimmi, avanti, meno male sento poco. Senti, quel vino di... Molto, tanto. Sentiamo la chiesa di buccia, crocro. Cosa stai andando? A super o a normale? In via cazzo, Un cazzo di cavoli dici, cazzo antenna 1, ci dà una regolata, la formula, scusa, mercurio cromo diventa rosso. fuori però, E da me al policlinico vieni, appena terra, verso le 8 e mezzo ti faccio la ricetta, vieni. Ancora in questo, da Domenico. Certo. Io ho esaldetto nel conto, ho esaldetto. Siate voi. Girano, se non si brucia. Che bravo, meno male, cazzo, se sono qualcuno. Cazzo. A te non ho bruciato un cazzo. Non è la mia figlia, non è la mia spada. Ma io gli ho detto dove è bello la forchetta il vino. E te poca gli abita al limite. No, cosa sapete? Andiamo avanti, il prossimo, non so che c'è. Sabato il prossimo. Oh, via. Antenna 1, fai bravo, fai bravo. E cosa capita? Faccio il momento. C'è il telefono! No, mica c'è il telefono che ti pisciglia, dimmi. Dimmi, già ascolto. Rappa. Non sento niente. No, adesso già mi ascolto. Pensa in spagnolo bisogna farmi crocro. Non fai niente. Vabbè. Ma Domi, gli spagnoli ci sono, Domi. E crocro. Ma quello che sono, faccio. Come la compagnia che ci avete stanotte, mamma mia, accudire. Ehi, accudire che cuzzo, crocro, fare al nido che cuzzo. Dove sei? A pesare? E stasera? Ma lì c'è una bella, io già una bellicia e peggio dentro. No. Io non so che... Non mi so. Sei a pesare? Mamma mia. Vai a nanna. A te la u, vai a nanna, che ti riposi, non vale da andare a trabaccare. Con l'asino? Non male. Dove mi riesci ad arrivare? Che la mamma si può farci le coperte per darsi la gara, dai, allora, ha detto che questa è sicurezza. Ma aspetta, quello c'è un segnale molto potente. Quindi va chiamato. Andare a nanna, vai a nanna, antenna 1, dai, non sei in condizione di modulare, dai. Vai, riposati domani quando sei più tranquillo, puoi modulare tranquillamente. Adesso non sei in condizione, dai. Vai da bravo e vai a nanna, a me. Hola, amico di Spagna, si scuccia Sardegna, Sassari Italia. Sicuro. Sicuro. Questo spagnolo è amigos, questo è Galla, questo è Ollo Galla. No, questa madura è Spagna, la chiamando Rico, Rico. Ehi, a Spagna, tutto molto bene, però questo è Ollo Galla, questo è Ollo Galla. Spagna, se vai sbucciando, vabbè. Cato. Ciao. Dimmi. Altore, dimmi. Ah, dietro Italia ci va ascoltando, allora in questo momento è Spagna che va chiamando, prego, prego. Mamma Kappa, attento l'amico che si scuccia, Sassari Italia, Sardegna, adelante però. Molto distante. Antonio. Kappa, dimmi. Ma come se abbiamo una scheda di OGPT, o un solo 4-2, dipende. Quella che mi sono posto oggi, che qualcosa non va, mi dà dei problemi. Scusate come ha, sono andato lì, non ne ha. E conclusione del discorso, quindi? E quindi l'ordine, non lo so, chiede qualcuno se ce l'ha, un RB4 da Inter, cosa ne so io, una LEM, ma se c'è un tomo contro lui, basta, basta quello. Ma provo c'è un birra, ma non aspetta. Non lo so quanto voglio la vita, non è so, io di... Di capito? Esatto, andiamo. Adesso non mi QRX per me, ci sentiamo dopo se siete in ascolto, dai. QRX per me, ci sentiamo dopo, alle prossime, dai, ciao ciao. Ok, vabbè. Ok. Allora, vabbè, va. Andiamo a venire avanti con l'amico della Spagna. Voglio mangiare. Ciao, Pantone, dai. Vediamo un po' questo amico dalla Spagna, dai, si sluce nord della Sardegna. Attento amico, se si sluce nord della Sardegna che ti va chiamando. Vamos, vamos. As la playa. Hola María, buenas noches. Buenas noches a ti, puro. Hola María. María, buenas noches por la Italia. Hola, hola. Io andavo a fare da bravo, mannaggia la pecorella. Va bene, vediamo dove è arrivato Domenico, saluto a tutti, io me ne vado in QRX, dai. Domenico, dove sei arrivato? Domenico? Sono te suoi. Fai bravo, antenna 1, fai bravo. Attenzione Maria, ci ricordiamo, copiando la Spagna in questo momento, sentiamo il Charlie Mike, radio operatore Domenico. Canale 3. Questo è spagnolo, va bene. Sì, questo è spagnolo, canale 3. Canale 3, chi vuole parlare con la Spagna? Io non ne manco grana. Adesso aspetto che esca Domenico dalle gallerie, lo salutiamo e che si chiudono le trasmissioni da parte mia. Domenico, dove sei? Domenico? Ha chiuso, ha chiuso. Chiuso Domenico? No, non penso. Domenico, ti affari. Domenico, non so se tu copi nord della Sardegna, Domenico, non so. so se tu occupi nord della Sardegna. Cambio. Non ci senti, Domenico? Non ci senti? E poi lo facciamo, Domenico? Sì, io ho sentito. Adesso per la sosta e riparti fra poco. Positivo. Attenzio! Scusi qua, il nostro Sardegna chiama Domenico dalla Spagna, troppo! Ok, stop. Attenzione Spagna, ascolti Nord Sardegna che ti chiama, no? Cosa sto? Che te lo fai? No, devo dire la preparazione non è aperta. Non è aperta la preparazione. No, pulitissimo. Si sente un po' antenna 1, sta cercando un po' di sventiare. Sono usciti i nostri superiori di 80 e la fine ci va. grande, va bene, le altre stazioni non arrivano dove arrivo io, dai. Ecco perché ti copiavano un po' basso, diciamo, ma è tutto dipende da loro. Io ti ascoltavo alla grande, infatti quando parlavi con te, ma come se ne ha parlato, eh? Ecco, ne sto parlando, Domenico. No, io ho iniziato a sentire il tuo perdita, ho iniziato, dico la verità, però no, non sentivo niente, sentivo solo questo bip leggero, leggero, perché già l'ho amplificato di segnale acceso. Poi una donna di Albertina, una di Castro, dopo Oschi, primo bip di Oschi, lì ti ho sentito, allora ho chiamato, mi ha risposto, no, Franchetto non c'è. Domenico, montano la capsula del Sirio. Però, vabbè, ma montano, nel senso, montano di serie oppure bisogna mettergli la capsula del Sirio? No, devi montare la capsula del Sirio, capito? Ma di più? Sì. Bomba molto di più. Però, se non sbaglio dovrebbe avere il fondo verde, quella del Sirio, no? Penso proprio di sì. Ah, il telefono sta dicendo Domenico, quello bianco con i tasti. Ma ne ho spaccato uno da poco per togliergli la capsula, assolutamente, ho capito qual è. Però l'avevo messa nel microfono normale e non ha dato tutte queste prestazioni. Evidentemente quando l'amplifichi invece ti esce a bomba. Sì, lo devi mettere nel microfono a tavolo amplificato. Allora ti dà più prestazioni. Adesso è quello. Prova a farlo, dai. Ehi, Domenica, me lo ricordo. Certo, le prestazioni te le dà di più, quando il microfono preamplificato spinge di più, capito? Cappa di Roger, ma dove è Domenico, che lo sto sentendo basso? Dove sei arrivato, Domenico? Campo Mela. Via tutto. Sì, campo meno. Sto un attimino risalendo una cosa, bianco per me un attimo. Cappa. Dove se n'è andato? It? Do antenna 1, l'embriago. Ehi, allora, fino a poc'anzi, fino a un secondo fa era in frequenza, ma penso si sia ritirato. Se gli si è scaricato il portatile. Senz'altro. Dove sei arrivato al distributore dove? Yeah, I want to.